carezza la tua età. Dentro una fotografia, oh, che luce sei, oh, oh, che luce sei negli anni miei. Oh, quasi come fossi qui, torna il viale dei caffè, il tuo scialle, il tuo foulard, è un profumo che non c'è. Oh, che luce sei, oh, oh, negli anni. Scendi